24 mattino. Sono le 7:16 minuti in questo istante, un buongiorno da Gigi Donelli, da Paolo Corleoni, come avete sentito in regia. Ancora molti temi in questo ultimo venerdì dell'anno. Noi partiremo questa mattina come di consueto dalle pagine dei quotidiani, ma vi anticipo che oggi parleremo anche di scommesse e di temi della salute. Proprio su questo fronte ieri sera il ministro della salute Renato Balduzzi ha firmato un'ordinanza per individuare i portatori delle protesi mammarie denominate PIP impiantate nel nostro paese, una vicenda che ovviamente preoccupa migliaia di donne, migliaia di famiglie italiane. Di tutto questo parleremo con il ministro Renato Balduzzi a partire dalle 8:20 e poi faremo un giro radiofonico intorno a questo vero e proprio boom del mercato dei giochi d'azzardo, che viaggia in grande controtendenza rispetto a queste giornate complesse invece di tutta questa settimana che vi raccontiamo, appunto, di dati più o meno negativi, per lo più negativi, delle difficoltà in questo anno di crisi. Ma ora partiamo dall'edicola. Monti crescita, non altre manovre. Questa è l'apertura, il titolo d'apertura questa mattina del Sole 24 Ore. Entro il 23 gennaio dunque liberalizzazioni, infrastrutture sud e via al dialogo sul lavoro. Il premier dice la correzione era un atto dovuto, ora avanti con il Cresci Italia, questa fase che lui stesso ha battezzato in questo modo durante la lunghissima conferenza stampa. Berlusconi dice bene, ma ci consulti, e Bersani da parte sua dice un vero e proprio bagno di realtà. E allora partiamo proprio, insomma, dai titoli che di fatto sottolineano e giudicano anche il appunto il lungo intervento di ieri del Presidente del Consiglio. La Stampa dice Monti tre mosse per la crescita, subito le liberalizzazioni, e aggiunge faremo di tutto per evitare le tensioni sociali. Questo l'elemento richiamato nell'occhiello dalla Stampa di Torino. Conti a posto, ora la crescita, il virgolettato, appunto, il Presidente ha più volte detto non esiste la fase 1 rispetto alla fase 2, ma nello stesso tempo ha a sua volta fatto ricorso a quelle semplificazioni da titolo giornalistico che poi portano appunto alla fase del Cresci Italia. E quindi conti a posto, ora la crescita, il Corriere della Sera, e Monti dice negozieremo con le parti sociali, ma le scelte devono essere rapide, così come sulla Stampa vi avevo detto prima, per evitare le tensioni sociali il Corriere sceglie il taglio legato appunto all'elemento della negoziazione, al richiamo anche al dialogo con sindacati e parti sociali, che in questi appunto giorni prima di Natale è stato al centro di parecchie polemiche. Monti, non farò un'altra manovra per Repubblica, conti al sicuro, sì al confronto ma agiremo subito. Monti, ora la fase Cresci Italia, il Messaggero la frase, il titolo che lo stesso Presidente del Consiglio segnala e suggerisce, ma naturalmente ci sono anche approcci diversi. La Padania, Monti, benzina sul fuoco, la lezioncina del prof al paese, conferenza stampa di fine anno, dietro la sobrietà monotona del Premier, in arrivo una raffica micidiale di aumenti per tutte le tariffe, Calderoli dice con questo governo dalla crisi alla miseria. Questa è la Padania. La crescita c'è, punto, della rabbia, solo tagli e tassi. Questo invece è il Giornale, che nell'occhiello riporta, diciamo, l'avvertimento di Berlusconi. Berlusconi avverte, nuove tasse sarebbero inconcepibili. Il fine d'anno di Monti per il Giornale, tre ore di conferenza stampa per fare una sviolinata ai tedeschi e non dire nulla agli italiani, mentre per il Fatto Quotidiano è un Monti solo al comando. Si è presentato come il salvatore dell'Italia fossata da Berlusconi. Il Quirinale mi chiamò il giorno dello spread ai massimi, dice, ora promette la crescita, i sondaggi sono ancora con lui, per questo dovrebbe avere più coraggio nello stanare la casta. Il governo c'è, ma puntini di sospensione, il Riformista questa mattina in prima pagina nell'annuncio del piano Cresci Italia, mentre per Libero è tasse sulla casa, ci si salva così, risposte degli esperti alle domande dei nostri lettori sulla manovra, ma diciamo che il titolo, tanto per escludere dubbi sull'intervento, sulla conferenza stampa di fino anno, è quello dell'editoriale di Belpietro che dice la lezione del prof, tante parole per non dire nulla, e Monti delude. Cresci Italia invece l'apertura a tutto spazio, a tutta foto del giorno, che riprende direttamente appunto il suggerimento del Presidente del Consiglio stesso, Monti, manovre finite per il secolo XIX, non solo spread, il nuovo motto di Cresci Italia diventa l'apertura dell'Unità di questa mattina. E ancora, crescita, comincia l'esame invece per quanto riguarda l'Avvenire in edicola. Insomma, queste in estrema sintesi, naturalmente poi vedremo di entrare negli approfondimenti, quelle che sono le titolazioni sulla notizia principale, sulla conferenza stampa di fine anno, sulla forte attesa per questo intervento. E per il Sole 24 Ore l'editoriale del direttore Roberto Napoletano questa mattina si intitola La sfida e dice: la differenza più rilevante che c'è oggi, che c'è tra oggi e poco più di un mese e mezzo fa, quando il paese si trovava sull'orlo di un burrone senza parapetto, è che qualcuno ha cominciato a comprare il titolo Italia. Qualcosa, soprattutto nel breve medio termine, si vende a tassi nettamente migliori per il nostro bilancio pubblico. Un lavoro ancora complesso ci attende sulle emissioni a lunga scadenza, ma occorre che gli uomini migliori del Tesoro di Via Nazionale tornino a vendere il titolo Italia e spieghino alla comunità degli investitori che quella appena realizzata è la più grande manovra di aggiustamento strutturale mai fatta in un paese come l'Italia in un tempo così breve. E prosegue più avanti Roberto Napoletano: il cammino per noi è in salita, ora possiamo farcela e, come già detto, non abbiamo alternative. L'impatto recessivo della manovra di Monti al netto degli effetti delle spinte restrittive globali è valutato da Banca Italia in uno 0,5% in due anni e si può recuperare abbassando di 2 punti il costo del denaro alle imprese. Un governo italiano, infine, che recuperi credibilità e faccia ritornare la fiducia è la condizione indispensabile perché possa pesare in Europa e scambiare disciplina fiscale con più mercato, più crescita, soprattutto più risorse al fondo salva stati, le FSF, persuadendo e superando l'ostinazione tedesca. Conclude Roberto Napoletano: questa è la sfida capitale di Monti, ma per vincerla si deve percepire che dietro c'è un paese che sta cambiando e vuole cambiare. Il Presidente del Consiglio dimostra di saper prendere le decisioni. L'atto voluto, e qui è un virgolettato appunto riferendosi al dopo la fase dell'atto dovuto, si entra in quella dell'atto voluto secondo il Presidente stesso, dunque l'atto voluto che lui stesso ha annunciato sarà il metro con cui gli italiani e il mondo lo valuteranno. Eccolo questo primo commento di questa mattina, commento che naturalmente attraverso, diciamo trasversalmente su tutti i quotidiani, significa anche commenti di politici. Su Libero oggi viene riportata, vediamo, eccolo qua. Su Libero oggi viene riportato tra l'altro di fatto l'intervento integrale del il messaggio dell'ex premier di Silvio Berlusconi sul male sta in Europa, pronti anche al voto, di fatto accompagna l'editoriale di Maurizio Belpietro, un Silvio Berlusconi quindi che interviene e in qualche modo rinnova il il messaggio, un po' ambivalente tra sostegno e d'altra parte sulla sua disponibilità a tornare questa mattina. Poi nella titolazione di Libero dice il discorso di Berlusconi: e sono pronto a tornare per salvarci dalla Merkel, quindi dall'Europa, tant'è che il titolo stesso di questo intervento scritto è Il male sta in Europa e pronti anche al voto. Ma visto che ci siamo, leggiamone subito qualche passaggio. Dice Berlusconi: ora però occorre puntare risolutamente sulle misure a favore della crescita e lo sviluppo dell'economia, a partire dalla riforma del mercato del lavoro, delle liberalizzazioni, delle privatizzazioni. Come sapete, noi abbiamo votato in Parlamento la manovra di questo governo perché era il male minore, vista la situazione di assoluta emergenza in cui si trova l'unità europea. Ecco, in questo caso appunto l'assoluta emergenza è rivolta sull'Europa e lo stallo in cui la speculazione internazionale aveva fatto precipitare l'Italia. E poi più avanti dice Berlusconi: noi abbiamo assicurato il nostro leale sostegno al governo dei professori, ma dobbiamo essere pronti a ogni evenienza e comportarci come se la campagna elettorale per le elezioni fosse già in corso. Commenti, come vi anticipavo, insomma, se ne trovano a tutto campo oggi sui quotidiani, in edicola, per lo più la sintesi è abbastanza ormai, diciamo, quasi tradizionale, con il sostegno appunto condizionato dei due partiti maggiori, con le distanze prese dall'IDV, con una serie di interviste. Oggi per esempio il Messaggero ne raccoglie nel primo piano tre, che sono quelle da una parte di Maurizio Lupi, quindi il PDL, che dice: non diventi un esecutivo politico, cadrà molto presto, con il riferimento al governo Monti ovviamente, e in questo modo, insomma, riporta una voce forte all'interno della PDL, ma non solamente, con un Fioroni che dice che prendendo tutte le distanze dice i partiti pensino al bene comune e non diano voti, e chi invece più esplicito e come più, diciamo, coerente con la linea del conseguente piuttosto con la linea del partito. Qui abbiamo Rocco Buttiglione, vicepresidente della Camera e presidente dell'UDC, che dice: sbaglia chi critica il professore, con Silvio era peggio. 24 mattino. Monti rassicura, mette ordine senza intimidire, cerca in tutto una via media non demagogica. L'innovazione che realizza è di stile, niente larghi sorrisi fatali, niente vernacolo bolognese, niente spirito gradasso, ma un linguaggio ironizzante crudo, calcolato per convincere freddamente e per essere inattaccabile, che sembra fatto apposta per curare le conseguenze di un'epoca di sogni e di incubi, l'epoca segnata dal maggioritario, dalla politica personalizzato, dallo schema Berlusconi contro gli anti-Berlusconi. Così questa mattina il Foglio Quotidiano, il direttore Giuliano Ferrara: cosa manca all'impeccabile preside? Si interroga in un Monti definito portavoce di se stesso, che mostra fair play, insomma c'è qualcosa ma non il trascinamento. Dice: se davvero nei prossimi mesi, scrive Ferrara, gli riuscisse di raffreddare i mercati spuntando nell'aggressività con risorse commisurate alla loro avidità, messe a disposizione dall'Europa tedesca, impegnando al tempo stesso il paese in una stagione di vere riforme, da quella fiscale a quelle di mercato della concorrenza, diventerebbe il demiurgo di una svolta non solo italiana, ma internazionale, come tale sarebbe celebrato. Ma che ce la si possa fare con mezzi compunti e compatibili, senza il fuoco nella pancia, senza l'impatto di un governo politico che difende la sovranità e la libertà di indirizzo di un paese in nome della maggioranza che lo ha legittimato, questo è un altro discorso. La triade rigore, equità e crescita è una trovata retorica per parare i colpi, ma il contrasto alla recessione con l'austerità è almeno in parte un ossimoro, e una cura del debito fondata sullo sviluppo che si realizzi con l'incremento della ricchezza prodotta e consumata consumata ed esportata. Ecco una formula che richiede squilibrio sociale e territoriale, che esige trascinamento e un ottimismo non di maniera, cose che a Monti mancano, almeno per adesso. Firmato, dicevo, Giuliano Ferraro. E Ferrara, è la lingua del disincanto, a proposito di commenti di direttori e vice direttori, in questo caso Massimo Giannini dice: in questo gelido inverno, su Repubblica ovviamente, nel nostro scontento, in questo gelido inverno del nostro scontento, è quasi inutile chiedere a Monti conforto e calore. Il suo governo di scopo non è nato per questo. La sua forza, che è anche la sua debolezza, deriva dal vuoto pneumatico della politica, che si autosospende momentaneamente per manifesta incapacità. Dario Di Vico sul Corriere della Sera dice: vorremmo tanto poter dire che l'atteso segnale di inversione è arrivato, purtroppo non è così. E prosegue: Monti ha fatto bene nella conferenza stampa di fine anno a citare il severo articolo che nei giorni scorsi ci ha dedicato il Washington Post e a richiamarci alle responsabilità che abbiamo nei confronti dell'opinione pubblica mondiale. Dobbiamo convincerli di essere cambiati, dobbiamo modificare i pregiudizi che mercati e governi hanno su di noi. Chi invece non apprezza per niente le citazioni alle testate internazionali, Alessandro Sallusti, quindi direttore del giornale, che dice: sarà l'abitudine dei professori a parlare fino a che non suona la campanella, sarà che i professori hanno alcune doti ma non quelli della sintesi, sarà che stare in diretta TV piace non solo ai politici ma anche ai tecnici, insomma sarà tutto questo, ma ieri Monti non finiva davvero più. Ma più sotto, più in basso, Sallusti dice: io preferirei un presidente del Consiglio che parlasse prima agli italiani che ai tedeschi, magari con meno supponenza e reticenza di quanto ha fatto ieri. Io vorrei che, oltre al Financial Times, che è stato citato nella conferenza stampa, leggesse anche i quotidiani italiani, cosa che ha detto di non fare per mancanza di tempo, perché se li leggesse scoprirebbe un paese reale che non è quello che incrocia nei club e negli alberghi esclusivi del mondo. I quotidiani italiani raccontano di imprenditori che si sparano perché lo Stato, cioè lui, non paga, raccontano gli assurdi privilegi delle caste che lui non vuole toccare, raccontano di un paese che la pressione fiscale sta mettendo in ginocchio ben più di quanto faccia lo spread manovrato dai suoi amici banchieri, raccontano di un paese in cui la rabbia sta salendo e che chiede al suo premier di parlare chiaro in italiano e, se è il caso, che mandi al diavolo i tedeschi. Tutte cose che ieri non sono accadute. Ecco, questo direi che ci dà un quadro piuttosto ampio appunto dei commenti, che naturalmente non si fermano qui. E a proposito del paese reale, leggendo le parole di Sallusti, richiamo invece altri titoli e anche altri temi. Dall'Avvenire, naturalmente, il titolo d'apertura è dedicato a Monti, alla conferenza stampa di ieri, ma c'è un grande taglio centropagina, parla di incubo povertà per un italiano su quattro, migliaia di interventi a favore di famiglie e imprenditori, un'azione capillare sul territorio, questo svolto dai fondi diocesani. Qui siamo su Avvenire, quindi il quotidiano dei vescovi, un tema, quello della povertà, che in queste giornate, diciamo di fine, in queste ultimissime giornate dell'anno, viene riportato in prima pagina da un clima, una crisi di cui ovviamente parliamo a lungo, ma anche dai dati. In questo caso di nuovo è l'Istat che dice il 50% delle famiglie vive con 2.000 euro al mese, situazione sempre più critica per i giovani tra i 18 e i 24 anni e i nuclei familiari del sud. I ricercatori dell'Istat dicono che è problematico persino il pagamento delle bollette di gas e luce, e la Caritas aggiunge: chi non ce la fa spesso possiede comunque una casa ed un lavoro. Il 16% delle famiglie arriva con difficoltà a fine mese, è l'elemento scelto per la titolazione invece dal Messaggero, e quindi l'italiano su quattro a rischio povertà. Nel 2010, scrive appunto oggi il quotidiano romano, nel rischio povertà o esclusione sociale il rischio povertà e esclusione sociale pari al 24,5%, quindi un italiano su 4. Nel biennio 2009-2010 risultano sostanzialmente stabili in Italia sia il rischio povertà assoluto, quello che è passato dal 18,4% al 18,2%, sia quello dello stato di grave deprivazione materiale. I dati dell'Istat raccontano un'Italia in cui in cui il 16% dei nuclei familiari ha dichiarato di arrivare con molta difficoltà a fine mese, il 9% invece non è riuscito a pagare in tempo le bollette, più del 10% è rimasto in arretrato con l'affitto o con il mutuo e l'11% delle famiglie italiane dice di non avere potuto riscaldare adeguatamente l'abitazione. Questo è un parametro sempre più diffuso, diciamo storicamente discende dall'Europa centrale e del nord, dove così anche c'è un po' questa idea che ci sia più freddo, ma insomma chi conosce il territorio italiano sa che il freddo arriva ben ben in fondo alla nostra penisola, nei suoi rilievi, nelle sue valli, quindi non riuscire a riscaldare adeguatamente la casa è sicuramente un parametro utile e legittimo per misurare i tempi di difficoltà. Il disagio, infine, vi cito sempre dai due articoli che ho sotto mano, tra Avvenire e Il Messaggero, dicevo il disagio è a macchia di leopardo, soffrono di più al sud e i giovani. Nelle regioni meridionali e nelle isole i redditi sono più bassi di circa un quarto rispetto a quello delle famiglie residenti al nord, le difficoltà per questo sono maggiori. Il 12,9% delle famiglie che abita nel mezzogiorno è gravemente deprivato, valore più che doppio rispetto al centro, più che triplo rispetto al nord. Quindi il tema della povertà ben presente in queste giornate della povertà e del disagio sociale. Vediamo altri temi ancora. Bene, a proposito, ci davamo Il Messaggero, ancora un titolo: benzina sempre più cara, l'Istat appunto riporta il rischio di povertà, ma intanto il prezzo della verde sale a quota 1,72. Ancora altri temi che ci portano nelle città italiane. In prima pagina sulla Padania di questa mattina c'è anche un grosso titolo dedicato a Genova e dice: Genova avrà la sua Mecca, amara sorpresa ieri mattina per una buona parte dei cittadini genovesi, la moschea si farà. Questo emerge dopo una riunione frenetica della giunta comunale che ha dato una forte accelerata sull'iter burocratico. Ecco, invece dalla prima pagina, sulla prima pagina del Secolo XIX, quindi quotidiano genovese, questa questione non c'è, ma è l'apertura della pagina genovese, moschea via libera dalla giunta e gli assessori, i divuli, tra dei valori non votano, l'ultimo atto in consiglio potrebbe slittare a dopo le primarie. E qui c'è di mezzo appunto i tempi di questo di questa vicenda lungamente discussa in città, anche a Genova, cioè l'ipotesi di concedere spazi nell'area di via Bartolomeo Bianco al Lagaccio, che dove dovrebbe appunto sorgere la nuova moschea. La linea dell'amministrazione è che sostanzialmente la mancanza in città di una moschea potrebbe creare in prospettiva grossi problemi di ordine pubblico. Naturalmente c'è una forte tensione, come ormai normale, su queste tematiche, e il lungo articolo di Vincenzo Galliano ci racconta cosa è accaduto proprio in queste ore. Allora, come anticipato da ieri dal Secolo XIX ieri mattina, assenti al momento del voto gli assessori di VU, l'esecutivo di Palazzo Tursi ha silenziosamente approvato la delibera che lancia il contestato progetto verso il traguardo finale. La firma della convenzione tra il comune e la fondazione islamica Majid per la realizzazione del luogo di culto con minareto su un'area pubblica di 5.000 metri quadrati in via appunto Bianco, un'accelerazione fortemente voluta in barba ai diktat dell'Italia dei Valori, voluta dall'assessore alla cultura Andrea Ranieri del PD, che all'operazione Moschea ha legato molto della sua credibilità. Dopo aver tentato di aggirare il difficile passaggio in Sala Rossa, Ranieri ha dovuto arrendersi alle norme che disciplinano la concessione delle aree pubbliche ai privati in diritto di superficie. L'ultima parola sulla possibilità per gli islamici di realizzare la moschea al Lagaccio la dirà dunque il Consiglio Comunale. Questo dal secolo XIX questa mattina. Adesso tra qualche momento andiamo a vedere anche quelli che sono i grandi temi internazionali, e ce ne sono. Prima però vorrei sentire insieme come vanno le cose invece sulle strade italiane. Ci sono almeno un paio di foto molto forti, molto importanti oggi sui quotidiani, appunto in edicola, riferite ai grandi temi della politica internazionale. Una piuttosto ricorrente è quella di una grande portaerei, si intuisce americana, portaerei americana in navigazione. Si tratta della John Stennis, che ha doppiato Hormuz nelle ore passate. Teheran minaccia, pronti allo scontro con gli USA, cresce la tensione internazionale sullo stretto di Hormuz. Il passaggio dello stretto è un chiaro segnale, inviato dal presidente degli Stati Uniti Obama a Teheran rispetto alla grande operazione navale, alla minaccia di chiusura dello stretto di cui parliamo dall'inizio della settimana. C'è poi un'altra immagine, che è quella che racconta una città, una bellissima città europea in una fase di forte tensione, ed è il racconto della nuova Ungheria che preoccupa l'Europa, secondo il titolo del Corriere della Sera questa mattina. L'uomo forte Viktor Orban, tra populismo e stretta sui media. Abbiamo raccontato anche appunto a Radio 24 nel corso di quest'anno come il nazionalismo, come le idee di ritorno di una grande Ungheria, che rimandano appunto al secolo scorso, ma proprio agli inizi, agli esiti disastrosi per l'Ungheria del primo conflitto mondiale, e anche a tutta una scuola di pensieri revanchisti che negli ultimi tempi sono tornati ad emergere. Ma insomma, bavaglio alla stampa, deputati in manetti, l'Ungheria di Orban spaventa l'Europa, e il racconto di Giuseppe Sarcina, che dice tra l'altro da giorni Budapest è una città tesa. Il 23 dicembre i deputati dell'opposizione si sono addirittura incatenati davanti al Parlamento, un grandioso edificio neogotico costruito nel 1844 sulla sponda destra del Danubio, che poi è la cartolina ricorrente da Budapest, appunto di fronte al castello di Buda, l'arcigno simbolo dell'assolutismo monarchico, un castello costruito in pieno medioevo dal principe Stefano, ampliato da Sigismondo, sovrano del sacro romano impero. Dice così, come dire, lui scrive: divagazioni come io le ho fatte, non proprio, visto che nei mesi scorsi il partito del nuovo leader, mentre il debito pubblico quasi raddoppiava, mobilitava la schiacciante maggioranza conquistata in Parlamento, 2/3 dei seggi, per inzeppare la nuova Costituzione che entrerà in vigore dal 1 gennaio, con riferimenti alla mitologia, alla retorica nazionalistica, con Santo Stefano, la Sacra Corona, la diaspora delle minoranze magiare nel centro dell'Europa. E sembra di essere tornati agli anni 50, racconta Zita Gurmai, europarlamentare ungherese, responsabile per le pari opportunità dei socialisti e democratici. Ecco, sembra di essere tornati agli anni 50, un periodo appunto che sentiva forte ancora il respiro della guerra, e che oggi in un'Europa che affronta appunto problematiche di cui parliamo tutti i giorni, di debito, sovranità, credibilità, l'Ungheria è un paese importante, vive una fase estremamente complessa e non da oggi, che preoccupa l'intero continente. L'altra notizia dunque, per quanto Abbiamo detto, oltre all'Ungheria, ritorniamo negli stretti, quindi l'Iran, nessun diktat dagli USA, è il titolo dell'articolo a firma di Michele Pignatelli oggi sul Sole 24 Ore, e peraltro su questa ipotesi c'è un occhiello che si riferisce all'apertura di Monti all'embargo petrolifero, rafforzare la pressione su Teheran, quindi una posizione italiana, diciamo, che affianca quella che è il nocciolo duro del blocco occidentale. Intanto, a proposito di segnali, vi ho detto una portaerei che viene mandata proprio in queste ore ad attraversare lo stretto di Hormuz è un segnale chiaro, ma se anche non bastasse, Claudio Gatti, nella stessa pagina del Sole, ci ricorda che viene firmato in queste ore un contratto da 29 miliardi di dollari. L'America vende aerei da guerra all'Arabia Saudita, da Honolulu a Teheran. Non ci faremo intimidire. Questo è il messaggio intrinseco che Barack Obama ha voluto mandare dalla località delle sue vacanze natalizie a Mahmoud Ahmadinejad, annunciando un nuovo accordo di vendita di armi dall'Arabia Saudita, cosa che, sottolineiamo, viene fatta appunto durante le vacanze in famiglia del Presidente degli Stati Uniti nella ridente Honolulu. Messaggi dunque per niente cifrati. Si tratta di un contratto da 29,4 miliardi di dollari, prevede la vendita di una flotta di 84 nuovissimi cacciabombardieri F-15S, la modernizzazione di altri 70 velivoli già in dotazione dell'aeronautica reale saudita, una boccata d'ossigeno per la Boeing e un'iniezione occupazionale per l'economia americana. Ma prima ancora che agli elettori americani, l'annuncio della Casa Bianca sembra rivolto proprio agli iraniani. Questo messaggio manda un messaggio forte alla regione, rinvigorisce il già solido e duraturo rapporto tra gli Stati Uniti e la monarchia saudita. Ancora Hormuz pronti allo scontro con gli USA, l'Iran immediatamente replica, non ci dettino condizioni, e in una infografica ci ricorda quanto sia importante lo stretto di Hormuz, crocevia delle rotte petrolifere, e sono numeri da milioni di barili, 6,6 milioni dell'Arabia Saudita, i 2 degli Emirati, quasi 1 del Qatar, 1,9 dell'Iraq e 1,4 del Kuwait, produzione che appunto prende la via dei mercati del mare passando, costeggiando il territorio iraniano e sboccando poi nel Golfo del Oman attraverso lo stretto di Hormuz. Insomma, le pagine internazionali restano calde fino all'ultimo in questa settimana, e nel frattempo, appunto, viaggiando per il mondo, siamo arrivati alla conclusione. 2 minuti mi fa segno dalla regia Paolo Corleoni. Benissimo, in questi giorni abbiamo qualche momento di spazio in più, e allora dedichiamolo rapidamente, perché nel leggere alcune testate poi abbiamo forse saltato qualche titolo. Eravamo al Riformista, al Governo c'è, il Cresci Italia del giorno, non solo spread dell'Unità, ma che dice sono, come dire, da segnalare anche nel giorno, visto che parliamo di esteri, l'intervista al ministro degli esteri, appunto, Giulio Terzi di Sant'Agata, e proprio sul tema internazionale parla di sanzioni più dure all'Iran, sull'ipotesi del nucleare. Ma in conclusione mi diverte segnalarvi dal Riformista un piccolo fondo di Cinzia Leoni che è intitolato "Il cielo ci scampi dai piscicelli". Giramento di pale a parte, scrive, dopo lo sbarco sul bagnasciuga dell'elicottero di Francesco Maria De Vitto Piscicelli, corre l'obbligo di interrogarsi sul piscicelli che è in noi. Messi da parte dettagli trascurabili come busta paga, estratto conto, crisi economica, se un Francesco Maria De Vito Piscicelli qualunque ci proponesse un giro in elicottero, cosa ci tratterrebbe dall'accettare? pudoro, decoro, educazione, cattocomunismo o semplicemente mal d'aria? Ecco, questo è un po' l'interrogativo, come dire, che può essere rivolto un po' a tutti noi in questo fine anno da questo fondino su, sul Riformista di questa mattina. Allora, siamo davvero in conclusione adesso, GR24 con tutti gli aggiornamenti, poi ripartiamo, vi ricordo, a partire dalle 8:20 sarà con noi Renato Balduzzi, Ministro della Salute, e poi parleremo di un altro tipo di patologia che è quella del gioco delle scommesse. A più tardi. Mattino. 8:20, ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Le pagine internazionali, i quotidiani, la lettura, la condivisione in questi giorni ci hanno portato più volte a citare il nome di Jean-Claude Mas. Jean-Claude Mas è un 72enne, è il fondatore di Poly Implant Prothèse, una società che in questi giorni, anzi ormai da parecchi giorni, al centro di una vero e proprio, insomma, una vastissima preoccupazione, perché il cosiddetto PIP, che utilizzava due tipi di gel al silicone all'interno, sono ormai oggetto di un'inchiesta su pericolosità, punti interrogativi proprio sul contenuto di queste protesi che vengono utilizzate appunto per la ricostruzione del seno. Il fondatore, quindi Jean-Claude Mas, ha ammesso di avere utilizzato dei prodotti di fatto a basso costo, materiali 5 volte meno costosi in una fase di difficoltà economiche, così ha spiegato quello che è accaduto già nell'anno 2000. Naturalmente, come spesso accade, questi prodotti poi viaggiano letteralmente per il mondo, dal Venezuela al Brasile, dalla Francia stessa che ne ha ordinato il ritiro all'Italia. E proprio il primo interrogativo che ci si è posti in questi giorni è il numero delle protesi. Quante sono queste protesi ancora prima di diciamo capire come intervenire? Allora, per rispondere a questo interrogativo, lo ringrazio di essere con noi questa mattina, il Ministro della Salute Renato Balduzzi. Buongiorno. Buongiorno. Ministro, lo ricordo da 40 giorni, anche perché poi magari mi piacerebbe chiederle appunto una visione a 40 giorni dall'ingresso dell'incarico della sanità italiana. Ma allora, Ministro, la Francia ha ordinato il ritiro delle protesi per tutte le donne che le portano. L'Italia quale iniziative prende? Noi abbiamo anzitutto fin dall'inizio tenuto sotto controllo e monitorato la situazione, dato un messaggio rassicurante, nel senso che non ci sono prove di evidenza scientifica che le protesi PIP procurino un rischio di cancro diverso e maggiore rispetto alla generalità delle situazioni, e io ho firmato ieri una ordinanza che adesso è al controllo amministrativo, sarà probabilmente pubblicata o domani o lunedì sulla Gazzetta Ufficiale, che serve appunto a reperire dati esatti della situazione. Quindi le strutture sanitarie sono invitate a redigere entro 15 giorni la pubblicazione un elenco nominativo di questi impianti PIP. L'elenco resta nella loro esclusiva disponibilità, serve appunto per finalità assistenziali e di sorveglianza sanitaria, e a notificare all'ASL o alla regione, a seconda del tipo di struttura sanitaria, le informazioni sulla data dell'intervento, o attestare che non hanno mai fatto tali trattamenti, cioè non hanno mai impiantato protesi PIP. A loro volta le regioni nei 10 giorni successivi comunicano al Ministero, garantendo l'anonimato e le informazioni relative, che vuol dire che entro la fine di gennaio noi potremo disporre di dati certi, e in più le regioni sono invitate, dove invitate vuol dire tenute, ecco, a invitare caldamente, quindi. Tenute, insomma, è il gergo un po' burocratico, sì, certo. Invitate, ma vuol dire tenute a verificare l'applicazione della raccomandazione del Consiglio Superiore di Sanità, secondo cui i centri che hanno impiantato protesi PIP devono richiamare le portatrici di protesi, appunto, al fine di verificare l'integrità della protesi stessa. Ecco, Ministro, ma allo stato attuale c'è un'idea, quantomeno per quanto vaga, del numero di protesi che sono entrate e quindi sono state poi utilizzate nel territorio italiano? Noi abbiamo una stima che, come tale, appunto è una stima che dal nostro punto di vista è una stima effettuata secondo criteri attendibili, ma appunto si tratta di una stima che porta al circa il 3-4% delle protesi complessivamente impiantate, e quindi secondo la nostra stima, che però appunto sarà verificata al termine di questo percorso, cioè nel mese di gennaio, il numero totale dovrebbe oscillare fra le 4.000 e le 4.500. Però ripeto, si tratta di una stima. Ecco, Ministro, quindi entro il mese di gennaio avere una mappa di fatto di questo impianto sul territorio italiano, dopodiché che cosa accadrà, nel senso che ci si potrà rivolgere, ci sarà una copertura del sistema sanitario nazionale per sostituirlo, c'è già una decisione su questo punto? Beh, diciamo che avere i dati consentirà poi di capire esattamente i termini della situazione. Noi abbiamo già comunque detto che il Servizio Sanitario Nazionale si farà carico degli interventi medico-chirurgici quando vi sia un'indicazione clinica specifica, ma questo va da sé, ecco, quindi appartiene proprio al modo di funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale. C'è un'indicazione clinica specifica e l'intervento medico-chirurgico relativo è necessariamente a carico. Cioè, mi sta dicendo che questo riguarda quindi diciamo gli interventi legati non puramente a fini estetici, o ho capito male io? No. Riguarda tutti gli interventi ove si verifichi una possibilità di pericolo per quanto riguarda la salute della donna, a prescindere da quello che sia stata la motivazione. Però ecco, anche su questo io credo che proprio perché il messaggio che tutti hanno dato, comprese le autorità francesi, che pure hanno adottato un intervento che ha fatto molto scalpore, ma nella comunicazione ufficiale dell'autorità francese c'era due volte segnalato che tutto il procedimento legato alla conoscenza e all'intervento sulle protesi PIP va fatto senza urgenza, cioè ecco, l'importante è dare questo messaggio che non ci sono ragioni per creare allarmismo, panico. Ecco. Perfetto, quindi verifica in corso, nessun allarmismo. Io vorrei approfittare della sua presenza questa mattina a Radio 24 per toccare anche un altro tema. Queste sono giornate, come dire, siamo alla soglia del 2012 e per molti che, come me, appunto tanti colleghi che fanno questo mestiere, ma soprattutto tanti cittadini, questo è anche, come dire, un tempo in cui si ricorda uno dei casi più drammatici della storia italiana in termini di salute. Mi riferisco alla grande storia drammatica dell'Eternit a Casale Monferrato. Io so proprio che in questi giorni il sindaco di Casale, Giorgio De Mezzi, ha chiesto un incontro urgente a lei, ministro della Sanità Balduzzi, proprio rispetto alla vicenda Eternit. Che cosa è successo in estrema sintesi? Ricordo 20 anni fa la chiusura di quella che è stata chiamata da molte testate giornalistiche la fabbrica della morte, ma un problema che è rimasto, che riguarda evidentemente l'Eternit, quindi l'amianto, il mesotelioma di conseguenza. Insomma, il sindaco si è rivolto a lei per intervenire e per chiedere e per decidere di fatto anche una decisione estremamente delicata e sofferta rispetto a un rimborso, un risarcimento proposto dalla società, diciamo, per intenderci, Eternit, che chiaramente sta lacerando la comunità di Casale Monferrato. So che ha intenzione di rispondere su questo tema. Beh sì, certamente io incontrerò sia il sindaco sia l'associazione familiari delle vittime dell'amianto, anche l'associazione ha chiesto un incontro con me, e questo perché l'amianto è un'emergenza nazionale, cioè ci sono 10 siti sinora dichiarati di interesse nazionale dove è in corso un complesso procedimento di bonifica. Il Ministero da tempo se ne sta occupando insieme per la parte di competenza con il Ministero dell'Ambiente e con le Regioni. C'è l'aspetto quindi della bonifica, c'è l'aspetto della salvaguardia di quelli che sono esposti, sono stati e sono esposti all'amianto, c'è l'aspetto medico-scientifico del contrasto, della conoscenza del contrasto della malattia, quindi del mesotelioma, e abbiamo già un registro nazionale mesoteliomi, c'è l'aspetto della ricerca, nel senso che anche su questo nell'incontro con le istituzioni locali, in questo caso Casale, ma evidentemente il problema non è soltanto di Casale Monferrato, perché ci sono appunto 10 siti italiani finora dichiarati di interesse nazionale su questo punto, e io chiederò anche che le istituzioni locali suggeriscano, perché le situazioni locali sono una diversa dall'altra, suggeriscano ulteriori linee di ricerca rispetto a quelle già esistenti presso il Ministero, e certamente dal punto di vista del Ministro della Salute c'è su Casale, come su tutte le altre realtà interessate dal fenomeno. È chiaro che io conosco più Casale perché è la provincia dove vivo, ma e quindi molte persone che conosco sono state colpite da questo male, e per cui insomma è evidente che in me quella cosa ha un impatto sicuramente molto forte. Però ecco, in generale si tratta di una, come diceva giustamente lei, di un'emergenza nazionale che è da tempo all'attenzione e che anche in ragione di fatti locali in questo momento è ritornata prepotentemente all'attenzione. Da un nostro punto di vista come Ministero non possiamo fare altro che continuare ancora con maggiore tempestività e attenzione a seguire questa lunga vicenda, auspicando che le istituzioni locali, le associazioni eccetera continuino a fare la loro parte proprio per dare una immagine di una volontà comune, di una corale volontà di affrontare il problema e di risolverlo. Un grande tema di salute pubblica. In conclusione, Ministro, 18,3 milioni di euro in cambio della revoca della costituzione di parte civile nei confronti dell'imprenditore svizzero Stefan Schmidlini, quindi uno dei due imputati del processo Eternit. Ci avrà pensato, lo ricordo, tra l'altro la sentenza è attesa il 13 febbraio. Questo è il dilemma che si pone il sindaco. Lei cosa ne pensa? Ma io rappresentato al sindaco, certamente senza alcun intendimento di interferire in quella che è una decisione delle istituzioni locali, attraverso un dialogo evidentemente con la cittadinanza, con le associazioni, io ho rappresentato al sindaco di Casale l'opportunità forse di valutare con molta attenzione questa decisione da prendere, proprio perché nella vicenda complessiva dell'amianto la posizione del Comune di Casale è stata molto importante come casa comune proprio di tutta la vicenda e di tutto lo sforzo che una comunità ha fatto per conoscere e comprendere il problema e riuscire anche a superare tutte le pastoie e le difficoltà burocratiche e legali per poter arrivare a identificarlo, a chiamare i responsabili, di a rispondere e così via. Quindi mi sono semplicemente permesso di rappresentare questo al sindaco di Casale, nel quadro proprio di un'attenzione che il caso Casale in questo momento sotto i riflettori, ma è un'attenzione più generale, proprio perché si tratta di un'emergenza nazionale, di un grosso e grave problema di sanità pubblica che avremo ancora per molto tempo. Ecco, quindi è importante che tutte le istituzioni lavorino secondo un'ottica collaborazione e di attenzione. Mi sono limitato a dire questo naturalmente al sindaco di Casale, poi nell'incontro che avremo potremo eventualmente andare sui dettagli. Grazie a Roberto Balduzzi, lo ricordo, Ministro della Salute in carica da 40 giorni. Insomma, la vicenda a Casale e questa scelta anche che di fatto si profila è molto complessa, molto delicata, a che fare con la salute, ovviamente in un momento di crisi, di difficoltà, i soldi servono. Il Comune peraltro ha sostenuto, come dire, con tutta la comunità i costi emotivi, sociali, ma anche quelli pratici dell'intervento, a cominciare dal fatto che si comprò materialmente l'Eternit per poterla smantellare. Certo che come dire, in vista di una sentenza ancora una volta ci si trova a cavallo tra denaro, giustizia, in mezzo la sanità pubblica, che riguarda appunto, come diceva poco fa anche il ministro, i casalesi, ma riguarda tutti quanti noi. 24 mattino. In tempi di crisi economica e calo dei consumi c'è un'industria in Italia che va a gonfie vele, quella del gioco d'azzardo in costante crescita di anno in anno. Secondo gli ultimi dati, il volume d'affari nel settore delle scommesse ha raggiunto nel 2011 i 76 miliardi di euro. Di questo parliamo nei prossimi 20 minuti, parliamo di questo fenomeno e di queste cifre davvero impressionanti. 9 miliardi è di fatto quello che lo Stato incassa su questo fenomeno e anche su questa malattia. Di quelli in particolare parliamo questa mattina. Abbiamo con noi Riccardo Zerbetto, che è psichiatra, psicoterapeuta, presidente dell'associazione Ortos, che da qualche anno, anzi ci dirà lui da quanto, si occupa di recupero di persone con dipendenze da gioco. Buongiorno Zerbetto. Buongiorno. Prima domanda, prima abbiamo parlato di emergenze sanitarie, sì, con il ministro. Ecco, lo è questa del gioco d'azzardo compulsivo oppure è un problema di pochi? Beh no, è un problema di tanti, perché attorno al giocatore, e si valuta che siano 700.000 i problematici più altri patologici, quindi si va sul 1,5 milioni di individui, c'è un alone di familiari che subiscono le conseguenze del gioco compulsivo: case vendute, perdita di posti di lavoro, famiglie spezzate, piccola criminalità, quindi non è tanto il problema in sé, ma l'indotto di problematicità che il gioco produce. Un indotto che, dunque, stando al dato che ci porta, si dice 700.000 persone in Italia che sono a rischio, quindi non sta parlando dei giocatori complessivi, perché in realtà gli italiani sono ben più quelli che giocano. No, perché c'è il gioco sociale, quello sono il 70% degli italiani, giocano almeno una volta all'anno, ma quello è il gioco. Il problema è quando diventa patologia, cioè quando il gioco invade la psiche di queste persone, la loro vita, succhia le energie sottraendole agli affetti, al lavoro, agli interessi, diventando quel demone, quell'ossessione, fonte di grande infelicità, per inciso, perché uno gioca pensando di migliorare le proprie condizioni, trovare un motivo di gioia, di leggerezza, di gratuità, come dovrebbe essere il gioco, invece si trova come Pinocchio che per andare al paese di Balocchi si trova poi sotto la frusta di Mangiafuoco. Ecco, ma in questo caso il gatto e la volpe chi sono? Perché la sensazione è che quando si parla di questi numeri, e poi si osserva, senza essere specialisti della materia, ma la diffusione proprio della comunicazione su televisione, web e così via, è che ci sia un grande vincitore, da una parte lo Stato, ma anche probabilmente una rete di vincitori occulti o non noti. Esatto, e questo è il punto su cui davvero bisogna fare un po' chiarezza, perché lo Stato e i monopoli di Stato sono proprio il gatto e la volpe, no? Nella metafora, nel senso che tragicamente, mentre il mercato dei giochi continua a macinare aumenti, e siamo arrivati ai 76 miliardi di adesso, che rappresentano però le entrate erariali sono solo il 15%, no? Lei ha citato questi 9 miliardi di euro, che sono pressoché la stessa quantità che andava nelle casse dello Stato nel 2004, quando il volume totale dei giochi era di 24 miliardi di euro. Quindi, un terzo, quindi c'è qualcosa che non quadra neanche su questo fronte. Direi proprio di sì, ma perché nessuno va a rovistare un po' sul perché questo fenomeno? Perché se le entrate erariali aumentassero, per esempio in Cina si parla della lotteria nazionale, le cui entrate per lo Stato sono sul 40-45% e vanno per ospedali, orfanotrofi, anziani, eccetera. Dice, vabbè, uno gioca, però ha un beneficio alla collettività, come un tempo, no? Del Granduca di Toscana, il primo casinò d'Europa, Bagni di Lucca, produceva quel denaro che veniva utilizzato per le opere sociali, mentre invece qui non avviene, perché se questi soldi servissero effettivamente per risparmiarci una finanziaria, ok, Però ecco, sul dove vadano bisogna fare una volta per tutte un po' di trasparenza. Magari ci aiuta in questo senso, torniamo tra un momento da Riccardo Zerbetto, dicevo, magari ci aiuta in questo senso il senatore Raffaele Lauro, che questa mattina con noi, già prefetto, primo firmatario di uno dei tre disegni di legge depositati in Parlamento per la regolamentazione del gioco. Intanto buongiorno senatore. Buongiorno a tutti. Ecco, la mia sensazione, ma assolutamente personale, è che da questo punto di vista la politica si muova un po', no, come con un pesce non freschissimo quando si parla di gioco d'azzardo, nel senso che è un tema a dir poco scivoloso. Da una parte c'è quel discorso del comunque si portano molti soldi nelle casse dello Stato e per carità al momento non è da fare gli schizzinosi, però poi da un lato vediamo che non sono poi così tanti quelli che arrivano nello Stato e poi dall'altro c'è comunque la sensazione che si sostenga in tutti i modi un fenomeno che assume pieghe molto pericolose, ma questo è il mio punto di vista. Lei cosa ne pensa? La descrizione che è stata fatta della ludopatia è in difetto, la situazione è più grave ed allarmante di quella anche ben descritta. Sono 5 anni che combatto contro il gioco d'azzardo e la Commissione antimafia ha approvato 2 relazioni all'unanimità inviate al Parlamento, il Senato ha approvato all'unanimità le proposte di legge che devono essere varate immediatamente come misura di urgenza. Tuttavia, sia la Camera che il Senato, cioè la classe politica nel suo insieme, non ha ancora la consapevolezza della devastazione sociale in atto. Integrerei solo un aspetto della descrizione fatta prima di me. Oltre alla microcriminalità che abbiamo analizzato nelle relazioni in dettaglio, c'è la grande criminalità. Infatti le relazioni parlano delle infiltrazioni della criminalità organizzata sia nel gioco lecito che illecito. Quindi il problema non è solo di curare i ludopatici con tutte le conseguenze indotte e descritte sulle famiglie e sul loro destino umano e sociale. Il problema è andare a monte alla trasparenza dei controlli sui concessionari che hanno sede legale o meglio illegale nei paradisi fiscali, nei contratti di pubblicità miliardari che vengono date a giornali e reti televisive, per non parlare delle problematiche del gioco d'azzardo. Infatti vi faccio i complimenti stamattina per il coraggio che avete nell'affrontare di petto questa questione. Quindi una parte della classe politica ha la consapevolezza, ma ora bisogna varare le misure urgenti per la tutela dei minori, per il divieto di pubblicità ingannevole, per la trasparenza dei concessionari e delle società concessionarie, senza nessuno schermo. La trasparenza deve essere totale e per avere un registro delle scommesse che impedisca il piccolo riciclaggio. Vede, voglio dirlo con chiarezza a tutti gli spettatori, sono mesi che io chiedo alla conferenza dei capigruppo del Senato, dopo l'approvazione delle relazioni, di mettere all'ordine del giorno non solo il mio disegno di legge, ma anche quelli del senatore De Sena e del senatore Ligotti. Se questo non avverrà a gennaio, io sono disposto ad assumere iniziative clamorose, perché comincio ad avere il dubbio che i signori di gioco non solo hanno lobbisti in Parlamento, ma rischiano, e dico una cosa gravissima, gravissima, di condizionare la libertà e l'autonomia degli organi costituzionali. Senatore, lei è stato chiarissimo su questo punto, tra l'altro, come dire, sottoscriviamo già un impegno per gennaio per sentirci, perché ovviamente questo è un interesse che ci fa piacere sentire con estrema chiarezza nelle sue parole, ma che è un interesse vasto della collettività. I nostri ascoltatori stanno mandando parecchi messaggi, ve ne segnalo uno, poi mandiamo subito gli aggiornamenti per chi è in viaggio, ma non è la stessa cosa per il tabacco e l'alcol, ci chiede. Rieccoci in diretta, stavamo dunque parlando di gioco di azzardo, ma soprattutto di un sistema che negli anni si è gonfiato a dismisura e che, come ci ha descritto con direi chiarezza, limpida chiarezza, il senatore Raffaele Lauro, è del tutto privo di trasparenza. Senatore, lei diceva un momento fa: sono disposto a gesti. Che cosa intende? È pronto alle dimissioni? È pronto a che cosa? A fare che cosa per far sì che, potrei, insomma, si rompa? Potrei anche dimettermi dal Senato se questi provvedimenti non verranno calendarizzati, immediatamente approvati. Guardi, oltre alle misure urgenti è necessaria una riforma organica del settore. Io ho auspicato che il presidente Monti non affidasse la delega ai giochi a nessun sottosegretario in quanto ministro dell'economia e delle finanze, ma la tenesse per sé in relazione alla gravità della situazione, così come è stata descritta in questa trasmissione. Vorrei però prendere lo spunto da quello che ha detto sulle mail inviate in trasmissione. Sì, tabacco e alcol, non è la stessa cosa? Guardi, questa è la stessa argomentazione che veniva usata per quanto riguardava l'uso della droga, delle cosiddette droghe leggere. Ora, non è dubbio che siano dannosi sia il tabacco che l'alcol, sui quali lo Stato ha delle entrate, e tuttavia questo non giustifica, come è accaduto per la droga, che noi apriamo totalmente il campo a un paese che è diventato già il Luna Park del gioco d'azzardo, per giustificandolo con le entrate erariali, e quindi in base a un danno minimo accettiamo un danno massimo che questa volta, mi permetto di ripeterlo, sarà assolutamente devastante. È più devastante avere un ludopatico in famiglia che addirittura un drogato, che è pure una cosa gravissima. Ecco, Riccardo Zerbeto, dal punto di vista quindi di chi ci lavora tutti i giorni, è davvero, come dire, quasi una, è ovvio, una domanda scontata, ma insomma è così devastante? Ci può spiegare quale situazione si trova a confrontare nel vostro lavoro? All'inizio le ho chiesto da quanti anni lavora con i ludopatici, ma non ho... Dunque, noi abbiamo questo programma sostenuto dalla Regione Toscana da 5 anni, un programma sperimentale. Il problema è che la ludopatia non è una patologia riconosciuta nel nostro paese, cioè non esiste. Per esistere dovrebbe essere inserite nei LEA i livelli essenziali di assistenza, che sono quelli che definiscono quando una patologia può chiamarsi tale o meno. Nel 1980 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che il gioco d'azzardo è una malattia sociale, però a oltre 30 anni di distanza l'Italia non ha recepito questa indicazione. Il motivo è che non ci sono soldi, perché se noi identifichiamo una patologia il sistema sanitario nazionale deve destinare dei fondi. Il problema però è che i fondi per il gioco d'azzardo nelle nazioni civili con governi responsabili devolvono parte delle entrate all'erario dal mercato dei giochi a interventi di prevenzione, cura e riabilitazione a favore dei giocatori. La Svizzera al 5%, la Germania al 4% o il 2%, in Italia neanche una lira. Noi da 12 anni sollecitiamo le autorità governative perché questa procedura venga adottata anche in Italia, non dico il 5% come in Svizzera, ma lo 0,5% che sarebbe già un consistente per avviare una prima rete di servizi. Servizi che noi abbiamo in Italia già predisposti, avendo una rete di servizi per le dipendenze, basterebbe implementare questa competenza in più per avere già predisposta una rete di raccolta alle situazioni problematiche. Certamente quando un intervento ambulatoriale non è sufficiente, perché un caso di gioco che si protrae da anni, da decenni in genere non si scalfisce facilmente, servono interventi più consistenti, tipo le comunità terapeutiche. Ora, mandare un giocatore per un anno, come per le comunità tradizionali, fuori dal proprio ambiente, famiglia, lavoro, è impercorribile. Proprio per questo noi abbiamo attivato un programma intensivo che si struttura in 21 giorni, salvo poi gli incontri mensili per il consolidamento, che ha dei risultati, perché è un programma mirato sulle aree di criticità del giocatore, che sulle quali adesso sarebbe un po' lungo addentrarci, che però ha un'efficacia, solo che questo programma rischia di decadere perché nel frattempo non c'è stata un'evoluzione normativa che consenta il sostegno finanziario a queste iniziative, perché sono sperimentali e non possono essere sostenute finanziariamente perché manca il prerequisito del riconoscimento della patologia e l'identificazione di programmi terapeutici mirati adatti a questo tipo di problematica. Insomma, abbiamo una situazione davvero da cortocircuito, solo che è immenso, un giro d'affari da 76 e più miliardi che cresce, si moltiplica di 3 volte in meno di 10 anni. Nello stesso tempo siamo totalmente o prossimi a essere a secco di mezzi per intervenire di un fenomeno che però non è una malattia, eppure la cronaca ci racconta tutti i giorni, insomma anche l'esperienza credo di ciascuno di noi, quanto invasivo, devastante possa essere questa problematica, questa malattia, questa patologia. Senatore Lauro, insomma, la situazione ce l'ha descritta molto chiaramente, il dottor Zerbetto ci ha dato un quadro anche breve, mi scuso per i tempi che abbiamo, tempi e scadenze, non sarà solo, spero, all'interno del Senato. Guardi, vorrei dire, una norma che è in vigore negli Stati Uniti e che servirebbe almeno ad aumentare la responsabilità dei concessionari e dei titolari delle sale giochi. Negli Stati Uniti, Las Vegas insegna, il titolare o la sicurezza di un locale che vede un soggetto giocare per più di un tempo e più volte al giorno, cioè un ludopatico che gioca in modo compulsivo e frenetico, lo deve immediatamente allontanare, altrimenti la famiglia può agire in giudizio per un risarcimento economico nei confronti del titolare della sala o del concessionario. Allora almeno dobbiamo mettere delle barriere, il divieto per i minori, ma che deve essere applicato con la sanzione della revoca immediata della licenza, non di multe di 1000 euro, di 5000 euro, di 20.000 euro. La seconda, il divieto di pubblicità ingannevole. Oggi tutte le reti televisive danno degli spot subliminali che invitano al gioco online. Sta diventando devastante il gioco online per molti italiani. E terzo, questa norma che aumenta la responsabilità dei concessionari e titolari, come negli Stati Uniti. Las Vegas è il regno del gioco, ma se a Las Vegas un ragazzo minorenne viene scoperto in una sala vicino ad una slot, si chiude immediatamente quella sala. Senatore Raffaele Lauro, la ringrazio, è stato molto chiaro, torneremo a parlare di questo tema, stia pur certo. Grazie a Riccardo Zerbetto, lo ricordo, psichiatra, psicoterapeuta, presidente dell'associazione Ortos, che trovate anche sul web. Noi siamo in conclusione, non mi resta che ringraziare Laura Faggini in assistenza questa mattina. Bene, e naturalmente questa era l'ultima rassegna stampa della settimana di 24 mattina, ma si continua domani. Noi ci ritroviamo invece lunedì, e dunque da questo orario almeno il mio augurio di un buon anno a tutti voi. A presto.